La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Gianrico Carofiglio è uno scrittore barese, ha 51 anni. Prima di diventare un famoso scrittore, è stato uno sconosciuto ma coscienzioso magistrato. La prima volta che la sua vita ha preso una direzione forte e netta ha avuto inizio proprio in un'aula di tribunale. Quando lavoravo a Prato ero pretore, quindi giudice monocratico, ma fui applicato in tribunale e ci occupammo di un processo molto brutto per una violenza sessuale del padre sulla figlia e lo condannammo, uscimmo con una pena piuttosto, anzi decisamente pesante, adeguata purtroppo alla gravità del fatto. Io ero un ragazzino, avrò avuto 27 anni forse, e da pretore mi capitava naturalmente di condannare, ma a pene molto più miti. Ecco, quando sentii il presidente che leggeva quella condanna, diciamo così, che significava un grosso pezzo di vita in carcere, ho proprio il nettissimo ricordo, le gambe che mi tremavano, l'idea, che credo sia una cosa sana, ecco, avere la percezione dell'enormità, delle conseguenze inevitabili ma terribili del lavoro dei magistrati, per un magistrato è fondamentale. Una sensazione analoga la ebbi e l'ho avuta anche più volte, anche se in maniera meno intensa, non tanto quando mi è capitato di chiedere l'ergastolo, ne ho dovuti chiedere molti, ma quando mi è capitato di sentirlo dare su mie richieste, ed è successo parecchie volte. Che cos'è un magistrato? Risponderà così Paolo Borsellino nel film a lui dedicato. Io sono vissuto in una società in cui, quando avevo 15 anni, un mio compagno di scuola si vantava di essere figlio di un capomafia del suo paese e io lo invidiavo. Oggi, al di là di quello che sarà lo sbocco giudiziario delle indagini, al di là delle eventuali condanne, le inchieste hanno avuto di riflesso una valenza culturale proprio perché sono state diffuse, rese pubbliche, perché la gente se n'è interessata. Oggi probabilmente non ci sono più a Palermo giovani come me, che a 15 anni invidiavo il compagno di classe figlio di un mafioso. I critici di Carofiglio, quelli che non lo hanno mai amato, dicono di lui che sia un egocentrico, che ha abbandonato la magistratura per il successo. E si chiedono come sia possibile diventare magistrati antimafia e poi scegliere di fare gli scrittori. Eppure, ogni vita ha momenti in cui la direzione cambia. Perché quella di un magistrato non dovrebbe poter avere questa opzione? Quella di Gianrico Carofiglio è la storia di un ragazzo per bene, nato in una famiglia di intellettuali del sud Italia, una madre scrittrice che passa, a sua insaputa, un gusto e il sapore della scrittura al figlio. In verità io ho il ricordo di mamma che scriveva su una vecchia, allora non vecchia, macchina Olivetti, credo una lettera 32, che era un oggetto proprio che mi affascinava enormemente. Infatti aspettavo che loro, intendo mia madre e mio padre, fossero usciti, perché la macchina era, diciamo, custodita nello studio dove di regola era vietato entrare, per poter andare e usarla io e battere sui tasti. Era una cosa, diciamo, per me enormemente affascinante l'idea che battendo sui tasti, mettendo un foglio, comparissero delle lettere che erano simili a quelle dei libri. In realtà mamma in quegli anni, quando ero bambino, scriveva molto poco e soprattutto scriveva cose che avevano a che fare con saggistica più che narrativa. Lei ha cominciato a scrivere narrativa, diciamo, in età abbastanza avanzata, ma era proprio l'idea, il gesto fisico dello scrivere con quell'apparecchiatura che mi sembrava terribilmente affascinante. La madre di Carofiglio, Enza Buono, siciliana, saggista e narratrice, della scrittura parla come espressione del vero. Parlo in questo libro di realtà del passato, di realtà. Ma non sono realtà anagrafiche. Io le ho vissute, queste realtà, e sono diventate vere. È diverso. Sono vere perché sono vere dentro di me e spero che possano risultare vere per chi le legge. Le mie parole sono sassi, precisi, aguzzi, pronti da scagliare su facce vulnerabili e indifese, sono nuvole sospese. C'è sempre il tema della verità in questa storia, in questa prima volta, del vero come sentimento, come testimone, come impegno che una madre passa ad un figlio. Gianrico, caro figlio, il bisogno di impegnarsi verso la verità lo ha sposato davvero, come quando, davanti a una moltitudine di ragazzi del Sud, parla di mafia, dei nodi deboli della mafia e cita Gramsci. Credo che loro abbiano paura di qualche cosa. Credo che loro abbiano paura della mobilitazione costante. Credo che loro abbiano paura dello stato di veglia dei cittadini, di più cittadini possibile. Allora io credo che quello che stiamo per leggere sia rilevante, sia molto rilevante e che sia bene ricordarlo. È uno scritto di Gramsci pubblicato nel 1917 nel numero unico de La Città Futura, giornale dei giovani socialisti. Odio gli indifferenti. Credo, come Federico Ebel, che vivere vuol dire essere partigiani. Non possono esistere i solamente uomini, gli estranei alla città. Chi vive veramente non può non essere cittadino e parteggiare. Indifferenza è abulia, è parassitismo, e vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. La prima volta. La prima volta. Io sono stufo, e non sono il solo, di essere il difensore di leggi che proteggono una società che fa schifo. Perché consente individui come lei di prosperare e proliferare. Individui come me? Ah. Come sono io, me lo vuol dire? Avanti, senti! Lei è un cittadino esemplare, per carità. Lei non froda il fisco, non incendi i boschi e non esporta valuti di svizzera, no. Ma cosa? Lei ha rispetto per il paesaggio, non inquina mari e fiumi, non corrompe i funzionari e frena davanti ai gatti neri. Signor giudice! Il signor giudice è convinto che certe leggi che consentono i detentori del potere economico di danneggiare la collettività vanno cambiate, ma capito? Ma sacrosante, ma è quello che dico anch'io! Non mi tocchi! Lei è un uomo vile e volgare. Je n'ai pas peur de la route, faudra voir, faut qu'on écoute, des méandres creux des reins, et tout ira bien là. Le vent nous portera. La prima volta di Gianrico Carofiglio, lo scrittore che ha venduto 3 milioni di copie e che ha di fatto inventato il filone del thriller legale italiano, ha inizio in una giornata d'autunno in un'aula di un tribunale a Prato. Così, come in un film di Risi, anche in questa storia c'è un giudice, un ragazzo di 27 anni. Si chiama Gianrico Carofiglio e condannerà una pena dura, giusta, lunghissima, un uomo per aver compiuto un'atroce violenza sessuale sulla figlia. Quel giorno, quella prima volta, a Carofiglio tremeranno le gambe. Quel tema della caduta agli inferi tornerà spesso nei suoi romanzi. La mia idea era quella di raccontare il percorso di un uomo o di una donna attraverso, diciamo, la caduta e il tentativo di riscatto, appunto. Quindi forse è questo il messaggio che voleva far passare, cioè questa speranza, questa possibilità di riscattare qualsiasi storia di vita? Non so se direi che volevo far passare un messaggio, perché in generale non mi piace l'idea di una scrittura che cerca di lanciare messaggi, nel senso, cioè, in maniera consapevole uno si mette a scrivere e dice adesso io vi spiego alcune cose, non mi piace questa idea di scrittore, però non c'è dubbio che poi uno scriva cercando di inserire quello che ha da dire, quello in cui crede, la costellazione di valori e di passioni in cui si immedesima, e certamente questo è un tema importante per me, quindi ecco, la metterei in questi termini. Non c'era e non c'è mai in me l'intenzione di lanciare un messaggio, ma certamente poi nei libri il messaggio c'è, perché è il risultato del racconto di una storia in maniera onesta. Lei ce l'ha il ricordo della prima volta che ha deciso di scrivere, cioè proprio non so, della prima sera, del primo giorno in cui si è messo a scrivere il suo primo libro? Ho il ricordo preciso, diciamo, del periodo. Ho il ricordo del quaderno su cui scrissi un po' di pagine prima di trovare il coraggio di mettermi al computer, una manovra di avvicinamento, e ho il ricordo che, diciamo, in quelle pagine c'erano cose molto diverse da quelle che poi sono finite nel libro, anche il tono complessivo era davvero diverso. se parliamo di giorni precisi, però invece ho il ricordo precisissimo della sera in cui ho finito. Era a maggio, io ho cominciato a scrivere a settembre 2000 e ho finito a maggio 2001, era proprio il nitido ricordo di essere sceso dallo studio. Io avevo fatto un fioretto, ho detto che non avrei fumato neanche una sigaretta per tutta la scrittura, avevo solo il diritto di accenderla a qualcun altro. E quando finì, quindi diciamo che il fioretto era realizzato, scesi e mi accesi una sigaretta. Io non sono un fumatore, diciamo, ma non direi neanche che sono un fumatore, ecco, sono un fumatore saltuario, però quello fu quasi un gesto, come dire, rituale, di dire vabbè, ho finito, posso. E quindi liberatorio anche in qualche modo? Direi di sì. Come scriveva? Cioè lei scriveva quando? Perché di giorno era magistrato, quindi una vita molto impegnata, scriveva la sera? Io ho scritto per quel primo libro, più che per gli altri, ho scritto molto la sera e anche la notte, diciamo nei festivi, quando rientravo a casa nel pomeriggio, però ecco, ho scritto parecchio di notte, cosa che è accaduta con minore frequenza e minore intensità per gli altri romanzi. Quello è stato un libro che ha occupato parecchie ore notturne, sì. E le manca questa dimensione notturna? No, veramente no. Nel senso, a me la notte piace, non mi manca la dimensione della scrittura notturna. Voglio dire, mi capita anche adesso di scrivere anche, diciamo, fino al mattino, ma questo di regola quando devo consegnare qualcosa e, come sempre, sono in ritardo. Cerco di spiegarmi. Io consegno sempre, diciamo, nei termini previsti, però arrivo all'ultimo momento per finire, quindi per tutti gli ultimi libri ho fatto delle nottate, ma erano nottate, come posso dire, di completamento, di emergenza, di sprint finale, mentre invece quel libro è stato scritto molto di notte, diciamo come dimensione naturale, ecco. Guido Guerrieri è l'avvocato protagonista dei romanzi di Carofiglio. È un uomo che fa un percorso, ma nelle pagine c'è un'altra storia che emerge, una storia in cui alla crisi segue sempre una sorta di rinascita. La cosa che le chiedo è, la prima volta che si è messo a scrivere, lei che cosa aveva in mente? Cioè, cosa voleva lasciare e cosa vuole lasciare come segno? Saperlo. No, non lo so, quando la prima volta che ho cominciato a scrivere, intendo dire a scrivere qualcosa che poi sarebbe diventato un romanzo, cioè il primo romanzo che ho pubblicato, non pensavo proprio di scrivere, diciamo, un suspense giudiziario. In realtà, per dirla tutta, anche dopo averlo scritto, non credevo di aver scritto quel tipo di romanzo. Me lo hanno detto i lettori e i critici, in particolare fu Augias a dare quella definizione. Io volevo raccontare una storia di caduta e riscatto, che poi è uno dei temi, diciamo, più di frequente presenti in quello che scrivo. Volevo raccontare di quest'uomo, Guido Guerrieri, che per una serie di ragioni ha un crollo nella sua esistenza e che poi in un processo è nella figura di un imputato che in qualche modo diventa il suo specchio, trova le ragioni per una rinascita. Mi è venuto naturale farlo utilizzando una serie di strumenti narrativi che hanno a che fare certamente con le tecniche della suspense, però io credo che il congegno narrativo di suspense, il cosiddetto thriller legale, sia più uno, come posso dire, uno strumento, un contenitore che è la finalità della scrittura. La mia idea essenzialmente in quel libro e poi in diversi altri, da quella di raccontare il percorso, diciamo, di un uomo o di una donna attraverso, diciamo, la caduta e il tentativo di riscatto, appunto. Cosa resta oggi al grande scrittore Carofiglio di quella vita pregressa, di quell'essere stato magistrato? Lei è stato magistrato, è arrivato alla direzione distrettuale antimafia a Bari, e la cosa che io mi sono sempre chiesta, poi la chiedo anche spesso ai magistrati, quali sono le sensazioni più frustranti? Facendo il pubblico ministero che si occupa di criminalità organizzata, di mafia, probabilmente il livello di frustrazione è meno alto che in altri lavori da magistrato, perché chi si occupa di criminalità organizzata intanto di regola ha un po' di mezzi in più di quanti non ne abbiano gli altri colleghi, si occupa di reati per i quali di solito si procede all'arresto e, essendo processi con imputati detenuti, si va anche abbastanza rapidamente a differenza degli altri casi. E quindi il magistrato che si occupa di quei reati è meno esposto, che so, alla frustrazione delle prescrizioni, che oggi secondo me è la cosa più insopportabile diciamo del sistema italiano, che lo rende tristemente unico nel mondo. Naturalmente poi la frustrazione generale è quella di vedere in molti casi che ci si è avvicinati alla verità su qualche cosa e non si è riusciti a raggiungerla. Questo però è inevitabile, fa parte delle regole del gioco. Credo che fare un lavoro in procura ordinaria, per esempio, o in altri uffici giudiziari sia più frustrante di quanto non sia frustrante lavorare in una procura antimafia. Cosa le manca oggi che ieri aveva? Nella vita professionale mi manca del lavoro di magistrato che io ho lasciato, non so se tornerò a farlo, mi manca soprattutto la parte del lavoro investigativo che mi piaceva molto, ma di altre cose che non ho più di prima, purtroppo tutti lasciamo sul campo qualcosa diventando più grandi, e deliberatamente non uso la parola più vecchi, e quindi se potessi fare un inventario di un po' di cose che vorrei indietro dal passato, insomma la terrei abbastanza a lungo qui, però insomma poi uno perde delle cose ma ne trova delle altre se è capace di guardare, ecco. La prima volta termina qui. Vi ringrazio per essere stati con noi e delle mail che scrivete all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Vi ricordo che sul sito di Radio 24 c'è la pagina del nostro programma e lì trovate il podcast per riascoltarci. Buona domenica a tutti, da Cristina Carpinelli.